qualcuno vivo, sì. Raga, ma sul telefono, cioè. Detto, fra, scusa. Ho detto ancora c'è qualcuno, dico. Sì, io allora, c'ho questo telefono che era molto tempo fermo. L'ho acceso, era acceso, no, vabbè, era acceso. Un paio di giorni fa l'ho lasciato acceso. Praticamente quando rimane troppo fermo non esce via il radio, nulla, poi una volta che si riprende. Siccome sa cambiare qualche condensatore, penso. E qualcuno ogni tanto c'è, sì. E vabbè, ma io sentavo pochissimo, ormai, me ne è passata la fantasia. Lei mi sa, un bel gente è passato. Ma comunque sta facendo bene. Sì, questo è il vecchio maracchino quando tu mi hai conosciuto. Poi io 3009 che è parcheggiato. Anche quello esce bene. E poi ho questo qua. Questo qua digitale, dai. Si chiama Aniton, il 666, no, il 555 Plus. Bello, quello l'hai preso nuovo? No, la seconda mano. Bello, mi sembra piaciuto l'apparecchio. Vabbè, sono sincero, ma i digitali non mi piacciono. Ma c'è bene, poi c'è anche un 20 watt, così. Sì, 20 watt. Di questo c'è addirittura 30, mi sembra, in AM, 60 in FM, in banda laterale. C'ha molte funzioni. Fa da banda A a banda F, allora, c'ha molte funzioni, sì, però digitale a me poco mi piace, a me sempre con l'analogico sono inutile. Aspetta, lì stacco il PL, lo attacco, aspetta. Sì, grazie. Voilà. Ecco qua, ci siamo. Sì, vabbè, la radio non spinge come quell'altra, però va bene. Vabbè, Mario vorrebbe aperto la LC, non lo so. Sono altro diverso. E poi vabbè, il 3009, quello è conservato, quello ho comprato autografiato, poi tramite una piccola mi ha dato tutti i ricambi, i coperchi, mascherina, quant'altro. Adesso è nuovo ed è una bombetta, quello tenuto benissimo. Ho anche la scatola di quello, pensate. No, io di questi non c'ero più le scatole, boh, credo di no. Però quel vento brutto mi ha piegato la staffa dell'antenna qua, caspita. E va. La teoria di ferro sarà, sui 3-4 mm di spessore, è a L, no? Ma l'ha piegata, l'ho dovuta smontare, l'ho appoggiata all'albero di fronte, dalla finestra mia l'ho appoggiata all'albero del fico. Ho smontato la staffa, l'ho riaddrizzata e l'ho rimessa, però era forte quel vento, comunque. E già, poi vabbè, già c'ho anche il ricevitore, quello è un casino, lo devo sistemare, nel senso non lo so usare, non ho più la pazienza che c'avevo prima, anni fra. E come mai, sta spegnendo tutto? Oh, spegne tutto, non spengo niente, qua sembra acceso, capito, ogni tanto magari lo accendo, c'è Gianni, Marco, capito, oppure gli altri, dai. È tutto qua, no, non è un problema. Infatti cosa mi difendo? Poi mangio il soldi, non c'è né radio né niente. No, non devo vendere niente. Per il momento rimane qua, poi chissà domani mi rompo le scatole e prendo e vendo tutto. No, intendevo dire, si sta spegnendo un po' la passione, non le radio, vabbè, per una questione per l'altra anch'io un po'. Intanto lo accendo, lo faccio accendere, lo faccio scaldare un po', però al 99% non c'era mai nessuno. Anzi, una volta ho collegato un amico che non sentivo da anni, che per me è poi difficile collegarlo, che trasmette dall'Argentiera, un radioamatore, dai. Io avevo capito, fra, sì, la passione, sì, ma io dico, alla tua risposta, io ti ho risposto che già accendo. Sì, la passione un po' è calata, un bel po', però già accendo, faccio due chiacchiere, così a farli andare. Tipo, quel iPhone lì, quando rimane troppo fermo, ho quel problema lì. Adesso devo organizzarmi bene per quanto riguarda... Nell'altro, mi sa che vediamo un po', devo procurarmi un commutatore d'antenna, così di tanto accendo anche l'altro, perché è conservato da un pezzo. E per non stare sempre a attaccare e staccare il PL, così? Sì, allora, attacca e stacca, capito, sì. E guys, Ubuntu. Però devi tenere sempre un acceso e uno spento, perché sennò diversamente rischi di fare danno così. Ma è successo? Stavo fischiando. No, qui no. Sentivo un fischio. Sì. Vabbè, adesso vediamo. Ripeto, la passione c'è, ma non è più come prima. Assolutamente. Forse magari in quest'estate faccio un collegamento. Guarda un po', aspetta, adesso sono al massimo di fatto. Guarda, adesso sono a zero. Come sono di segnale? Cambia qualcosa? Rispetto a poco fa? Guarda, così. Ah, così, cambia qualcosa? Secondo è più forte. Vabbè, ma dico di segnalemi. Ma ti devo attenuare, perché cambia, non so, da 9.30 a 9.32, 9.35, capito? Fai il passaggio col segnale basso, che ti porto tipo a 9, dai. Segnale basso, vai. Adesso ti ho portato a 9, prova a mettere la massima potenza. A 9.25. La sale allora, dai. Aspetta, faccio un'altra prova. Guarda, sono agganciato, guarda un po'. Hola. 9.30, però un po' strozzata la modulazione, te la schiaccia un po'. Forse dopo la bassa di fatto, guarda adesso. Prova. Guarda un po', 1, 2, 3, prova, vabbè, sono un po' vicino, Guarda un po', si è strozzata. Ho passato i watt poco e sono agganciato. Meno, rispetto a prima meno, però ripeto, è sempre comprensibilissima, Non è che. Non ti immaginare chissà che cosa, va sempre bene. E magari un po' cambia, dai. Sì. E non so quanti watt saranno adesso la radio, non lo so. Sono a praticamente un quarto. Potenziometro. Ma è carina questa radio, a me già piace, però digitale è un po' così. Poi SMD, mamma mia, se si brucia qualcosa ce lo devi buttare. Perché? Non si possono riparare? A quanto ho capito, ho letto, no. No. Non lo so. È agganciato quanti erano in tutto? Guarda, questo qua si manda dalla. Non so, la 747 dalla 60, va, 70, non lo so, ti viene una balla. Mai devi provare, come si dice, alla distanza. Ti stavo dicendo, l'altro giorno ho collegato l'argentiera, che lo sentivo un segnale di zero, però sono riuscito a parlarci in banda laterale, però. Ah, e dove? A quell'argentiera, conta che è un bel basso, la mia antenna è nella finestra, cioè, infatti anche lui è rimasto sorpreso, strano che riesce ad arrivare qua, perché io ho difficoltà a parlare con Sassari, mi ha detto. E boh, e dov'era questo qua? Cioè, no, non dov'era, ma in qua su 10? No, eravamo sulla frequenza di DX, 27555. Allora, mi sta assorbendo l'ampli quasi 10 ampere. Si consuma già. Io pensavo che il mio è 10 ampere, quindi ce la farebbe al limite proprio, anzi sicuramente anche poco. Invece sganciato sono con i watt al massimo della radio, con 5 ampere neanche, 4. Ah, e quindi la consuma poco? Con la radio sì, ma c'è quel coso quasi 10 ampere. Ah, perché è a 12 volt, giusto, è collegato all'alimentatore? Sì, è un po' veicolare. Comunque ce la fa tranquillamente, vedi, caspita. E l'alimentatore da quant'è? L'alimentatore è da 35, mi sa, no. Se non so, 30 ampere mi sa che sia. Il BK 35 SW. Ma eri quelli a trasformatore o switching? Oh, switching, c'ho anche quello a trasformatore. Io ne ho un paio di quelli, però non so da quanti ampere siano, boh. Ma quali, quelli dei computer? Non so proprio di computer, ma quelli rettangolari un po', che hanno la morsettiera sotto. Ho capito. Ah, sì, anche quello lì, anche quello, 50 ampere il mio, però ovviamente sono 50 ampere reali. C'ho anche quello. Sì, c'ho quello sui, questo si chiama PK 35 SW. E poi ho quello switching con la morsettiera, quello che hai detto tu prima, e poi ho quello a trasformatore. Sì, comunque questo, diciamo, il Samurai riesce a pilotarlo tranquillamente, no? Quindi penso che sia almeno un 10 A, 10-15 A. Boh, non lo so, questo non te lo posso dire. Ci vorrebbe uno strumento a vedere, oppure non lo so, vedere se c'è scritta qualcosa, non mi sono mai... sto guardando ma non vedo niente. Vabbè, ci vogliono gli occhiali per vedere certe cose qua. Io uso gli occhiali lo stesso, da vicino. Aspetta che provo a vedere se riesco a vedere qualche cosa. No, mi dà solo l'alimentazione e basta. Niente. Sì, ho capito, scusa. Sto lavorando, sai? Sì. Bene. Ho visto che manca l'antenna della buonanima di Natalino. Sì, se l'ho staccata io. E non è che la stanno vendendo, no? Ma la data a me è il fratello, l'ha venduta. Ah, te l'hai preso, però non la stai usando, no? Adesso seguo la Mantova. Sono la Mantova. Anche l'apparato è di Natalino, perché ce l'aveva anche lui, quello lì. Esatto, sì. Almeno c'è un ricordo, Luca! Ma ripeto, a me è digitale, poco bibbiati. Solo quindi mi fai sapere, anche l'antenna, ma mi è piaciuto tutto. L'antenna no, non ce l'ho più data, l'ho data un amico. Infatti, sono arrivato tardi. Mi sono accorto l'altra giorno, perché quando passavo guardavo sempre, no? Se c'è, tu mi c'è ancora l'antenna, invece poi è sparita. Però presumo che questo qua lo vendo, digitale. Luca! Aspetta che spengo anche il valvolare, che l'ho fatto scaldare, mi sa che è anche troppo caldo. Abbiamo parlato assieme, ho detto ci posso cucinare il cavallo sopra. Ho detto che sicuramente lo venderò. Sì, vai, mandami un messaggio se ti decidi. Non lo so, ti farò un giro per vedere quanto costa. Adesso non mi ricordo, io l'ho visto su internet, aspetta, controllo. Luca! Il Natalino aveva anche comprato bene, un bel prezzo gli avevano fatto Natalino. Ma non è questo qua, però mi sa. Non è Superstar. Questo qua non è. Questo non è. Questo è 555, però questo qua è il mio plus. Non me lo dà. Se è questo, no. Riesci a vedere, non è questo, però vediamo, aspetta. C'è una versione anche N, mi sembra, 555N. Allora, non è questo perché... Aspetta. Vediamo un po'. Perché non mi fa andare avanti? Sì, è questo qua. Lo sto vedendo. La seconda mano lo stavo vendendo. 165 euro. Ma no, chissà dov'è. Mi stavo chiamando Daniele. Buonasera. E a Daniele, c'avevo lo scratch, scusa, che perché a me il rumore del cuore poco mi piace. E beh, Daniele, vediamo un po' se senti a Franco, vai Franco, senti a Daniele. Mi sai di no, sento che parla qualcuno ma non riesco a capire. È copiato, Daniele? No, Luca Ariè, sento un bip forse in lontananza. E lui è a Itri, capito. Aspetta, vediamo un po', allora, attenuazione, non ne ho, però se vanno più basso del solito, come mai, Daniele? Sono la radio è bella, niente da dire, segnale 4 a 5, arrivi 4, modulato 5, però la radio è bella. Tu sei a picchi di 6, 7, non so, sto dando 30 a fatto adesso. Guarda, si aumenta qualcosa adesso, guarda un po'. Adesso sei 9,5. Vieni, applichi positivi, va bene. La radio è buona, sì, mi ascolti bene. Sì, la radio è sempre perfetta, lui. La radio è perfetta. Franco chi? Franco Binario. Non so se l'hai mai sentita a Sassa. Forse sì, forse no, non lo ricordo. Comunque Fra, ce l'ha lui l'antenna, se voglio chiedo magari. Vabbè, te d'accordo te la faccio vendere. Ho capito, chi l'hai data tu? Daniele, la vuoi vendere l'antenna, quella te l'ho dato io. Quella adesso Lu a provare cosa dice. Angeli occhi di Alghero. Basta. Ma lui l'hai venduta? No, c'era lui a provare. Ok, lui ci ha fermato, ma sta messa male, ti ricordi? Ha preso antenna, la mia era qua parcheggiata e le ho scesa a sabato. Ah, ho capito, sì. Diceva un amico a provarla fra. Ce l'ha un amico. E niente, adesso, vabbè, nel caso, lui magari sarebbe interessato, capito Daniel? Va bene, se Angelino non se la prende, che non gli piace, già ti faccio sapere. Ia ia, per quel prezzo là va bene, dai, quello là. K. Perché non va a costare 180 euro? Fra, quando termino, vabbè, qua c'è la fondoscala, fra, normale, siamo vicini, arrivi benissimo, senza problemi. Però quando termino così, lui è a Itti in un punto un po' così, mi critico, non è un punto buono. Io lo sento, segnale 5, cioè 4 modulato 5. E la radio già è buona comunque. Ma Daniele, scusa un attimino, Watt quanto stai andando? Un attimo di bianco. E vai. Senta, lui, adesso mi hai fatto un pelino, guarda un po'. Oh va? Guarda se è cambiato qualcosa, che ha dato un po' più di vitamine. No, è sempre lo stesso, Prova a fare un paio di fischi a vedere. No, forse poco fa ho visto male io, vedi, 3 a picchi di 4, sei 4 fisso. Vedi, qualcosa è aumentato, poca roba. Ho evitato l'ampi già al 5, ma ripeto, la radio è bella, molto bella, esci bene. Però il segnale, vabbè, alla fine, lascia il tempo che trova. L'interessante è che due riescano a parlarsi, dai. Esatto. Toccate la radio, poi il segnale non fa che nulla. Guarda, ieri ho pensato, ti ricordi la PRC1000 che ci avevo prima? Sì? No, ho piantato in macchina adesso. E stavo facendo commissioni a Predagnetta, a Globo, quella zona di risparmio a casa. E stavo arrivando, sino ad Alghero stavo arrivando. Ah, ti hai messo mal buco, hai fatto magnetica? No, la magnetica l'ho messa lui. Ho messo magnetica e sto usando il 3009, il superstacolo modificato che c'avevo qua. Ah, hai visto, Il buio da che ho, sono una vita che non lo sento. Forse non c'è più nessuno, La tavola ti è entrato Carlo, ma con Carlo stai parlando? Carlo, Vanni. No, già ce n'è gente, per quello sì. Perché entrano in poco in radio. Daniel, cioè io, vabbè, dipende. Non è sempre che ci sono. Adesso l'ho acceso, anzi bugia, avevo il iPhone acceso. Perché questo iPhone qua quando rimane troppo fermo non mi esce di radio. Poi una volta che scalda si riprende. Però questa volta non me l'ha fatto il problema, non so perché, Forse perché è rimasto poco fermo. Però era mesi e mesi prima e non andava, proprio ho detto un radio che farà. Io l'avevo spento che andava. E niente, adesso è acceso sempre, no, è spento, se no mi fa innesco. No, lo lascio così, stand by, così se lo voglio provare già funziona, dai. Mi sa che quello lì me lo voglio fare in soldi, però non ne faccio niente. Fai bene, siamo usi, fai bene. Io non so, c'ho quell'87, non so cosa se vende, può tenerlo, adesso vediamo cosa farne. Sono arrivato, buh, basta. Ciao Matti, break. Ciao carica, buonasera. Ciao Tony, non so se ti ascolta Daniele, non credo. Sicuramente ti sentirà Franco, se è rientrato, vediamo un po'. No, negativo, sento anche lui che parla. Poco fa ho sentito fischiare appena Daniele, quindi non so se lui mi sente, Sì, ma hai sentito, ti mando avanti Franco, Marco. Vai Fra, prova a chiamarlo. Ma non lo sai, Marco mi ha detto, Marco mi senti? Ma io sono agganciato, Fatto segnale 5-9, ha detto. Sì, ti copia bene, Fra. E a me come mi ascolti invece, Marco? Ok, ma ti ascolta bene. Vediamo un po', Daniele, tu lo senti a Canica? Dio mio, lo ascolto, è meglio al QRM, lui. Che non è ce n'è pochissimo oggi, strano, va bene, il QRM. Però lo sento basso, basso, basso, basso. Sì. E qua arriva basso, non è che arriva, radio 2 arriva qua, il segnale 3 arriva bassino qua, magari non avrà poca, cioè non ha antenna sicuramente, non lo so. Che antenna hai, Marco? Ok, chi è che vuole entrare avanti? Chi è che vuole entrare avanti? K Robby 2, sì che ti ascolto. Segnale da parte mia 4, radio 3, non so come mi ascolti tu, vediamo un po', ti mando avanti Daniele se lo senti. L'hai copiata Robby 2 da Alghero, Daniele? Ehi, ciao Fanny, ben sentito, buonasera. Però devi essere un periodo di vitamina, che c'è più pio oggi. Scusate, sono al telefono un attimo. Ehi, Alghero, qui sto usando sempre il vintage. Alghero, mi ascolti? Capa Franco qui da Sassari, ti ascolto molto, molto male purtroppo, perché la mia antenna non è sul tetto, è sulla finestra. Vediamo un po', l'amico di Alghero, come mi ascolti a me? Allora, come antenna sto usando la Mantova 5, la vecchia Mantova 5, e il mio nominativo è Luca, avanti se mi hai copiato. E ok, ecco positivo, dai. Va bene, dai, segnale 4 da parte tua, radio 2, 2, 3, dai, riesco a tirarti fuori senza problemi. Chi è che non lo sente? Chi, io chi? Ah, Ciocri. Ok, dai, non so, fra, tu l'hai copiato l'orico di Alghero? Sì, se non ci sono disturbi riesco a sentirlo, ma come si dice, pio pio, però lo ascolto. A me mi ascolta un po' meglio, forse perché sto usando qualcosina in più. Comunque saluto anche Cristian, avanti Cristian. Lo sento a malapena io, ma per me è negativo comunque Alghero, Avanti Luca. Allora, prova la ricordo di Alghero un attimino, scusa, ci ho attenuato un po', riprova, fa un passaggio. Ok, allora, io avevo un po' il segnale, cioè avevo l'attenuatore un po' inserito. Segnale tuo è 7, la radio, come ho detto prima, 2 e 3, e niente. Prova tu Daniele un attimino, vediamo un po'. Cioè, poco a poco l'attenuatore è chiuso, vai. Lu, io qua c'ho, come si dice, QRM si sta iniziando a sollevare, non è più basso come prima. Quindi sto facendo fatica anche a sentire a Fanny, che di solito arrivava bene, vabbè, che sto usando una radio vintage. E sento solamente a te bene adesso. Ah, senti solo a me bene, ho capito. Sicuramente quello di Alghero ti ha copiato, vabbè. Non lo so, mi sono sollevato QRM, infatti mi sono sollevato, ho girato l'RFG, l'ho messo al massimo, il QRM mi è salito, ce l'ho tipo 5-6 così, va bene, dai. Ok, vediamo un po' l'amico di Caniga. Ah ok, ti è copiato anche l'amico di Caniga comunque, Massino, l'ho da copiato, avanti fra. Mi dici il nominativo del tipo di Alghero? Robby 2 ha detto. Me lo scrivo perché non l'ho mai copiato. Mi ha detto che antenna sta usando, anche lui la Mantova 5. Così è Luca. Cristian, sei ancora qua in zona Costa Trinità o ti sei spostato? Non ho capito, scusa. No, ho detto, sei ancora in zona, qui, zona... come si chiama? Zona Monte. Siamo vicini alla linea d'aria, siamo a Vulve, neanche un chilometro. Non arrivi bene. Antenna cosa c'hai? Magnetica o fissa? Bene. Luca, ci sei? Ogni tanto sparisce Luca. Robby 2, ci sei? Ora, vediamo un po' se adesso mi ascolti meglio. Vediamo un po', Luca, se mi ascolti meglio, ok? Scusate il telefono, una bassa. Prova, vediamo un po' se mi ascolti, Daniele, mi ascolti, Radio Spillo. Ehi, Fanny, sono un pochino meglio adesso, tirati fuori. Capa, dai, c'è un QRM fortissimo, ok. Vediamo un po', siccome adesso ho cambiato radio, volevo vedere se magari l'ascoltavate meglio. Marco Aurelio, mi ascolti a te? Sì, questo è il benissimo Marco, l'ho ascoltato benissimo questo passaggio, segnale 5, contenti positivi. Allora, allora il nominativo è Rocky 2, come Romeo, Oscar, Charlie, Charlie Hotel, India, Rocky 2. Questo è, no, mi sembra che Luca si è spostato il telefono. Luca! Andiamo un po' attento, Luca, mi ascolti? Sì, ti ascolto, è un po' saturo, sì, Sono un po' saturo, aspetta, ha migliorato così? No, prova un passaggio in FM. Arrivi meglio, molto meglio in FM, però la radio è, come dire, non so, forse sei troppo vicino al microfono, se ne arriva un po' strappato. Thank you. anche Daniele qua, ma non vi ascolta, mi sa, se lo ascolta solo a me, basta. Io mi devo assentare 10 minuti e devo provare una scheda. Ok, dai, ciao Daniele. Alla prossima, allora. Vediamo un po', magari se riusci un po', non so, ad abbattere questo QRM. Va bene, ciao, Rocky 2. Io non ho capito prima, Rocky 2, invece Rocky 2, ok, dai. Ciao Marco, lo stesso, Marco Aurelio. E alle prossimine. Io adesso devo provare una scheda, devo fare delle prove. E purtroppo vi devo abbandonare. Alla prossima, ciao ciao.